Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. L'editoria è in crisi ormai da anni, soprattutto di libri se ne leggono sempre meno mentre se ne pubblicano sempre di più. A parte rari casi, poi la maggior parte dei libri registra numeri di vendita molto piccoli, tanto che considerando i costi fissi per realizzare il libro, editarlo e quant'altro, di solito un libro è da ritenersi più un prototipo che non un prodotto seriale. E questo problema c'è stato sempre. L'ebook in parte consentiva di superare questo problema azzerando quantomeno i costi di stampa, però l'ebook si porta dietro anche fenomeni di pirateria che prima erano impossibili. Insomma, per tentare una risposta in questa situazione molto difficile è nato Bookabook, di cui parliamo questa sera. È una piattaforma di crowdfunding, la prima in Italia dedicata esclusivamente al mondo del libro. È un progetto che nasce dalla sinergia tra due agenti letterari che sono Claire Sebattier-Gara e Marco Vigevani, che selezioneranno autori e contenuti proposti dalla piattaforma, e poi due giovani imprenditori digitali, Emanuela Furiosi e Tommaso Greco, che hanno avuto l'idea. Tommaso Greco è in linea con noi. Buonasera Greco. Buonasera a voi. Allora, rapidamente ci dica come funziona questa piattaforma di crowdfunding dedicata al libro. Allora, Bookabook propone ogni mese una selezione di libri inediti. I lettori possono leggere l'anteprima, le prime pagine, e poi se sono interessati, se il libro gli piace, possono decidere di partecipare. Si può partecipare facendo un'offerta, l'offerta minima è di 3 euro, quindi un'offerta molto più bassa rispetto a quello che è tecnicamente il prezzo di copertina di un libro, sì, o di un ebook. E a quel punto il libro ha 30 giorni di tempo per raccogliere la somma dell'obiettivo che ci si è fissati. A quel punto il lettore non solo ha partecipato con l'offerta, ma può coinvolgere i suoi amici. Può coinvolgere, ecco, perché voi vi aspettate, anzi sperate, che il lettore interessato cerchi di portarvi altre persone che fanno la loro piccola donazione per far nascere questo libro, no? Noi crediamo molto nel valore della community, sia come esperienza sia come possibilità di decidere tanti lettori insieme, unendo le forze, finanziare un libro. Di finanziare un libro. Libro che può essere già esistente, cioè voi gli fate vedere il primo capitolo, ma ci sono già gli altri, ma libro che può anche non esistere, cioè un autore, ci sono vari autori, insomma esordienti, anche autori più noti, diciamo, uno può anche scrivere un primo capitolo, poi se piace scrive il resto. Esattamente. Idea, no? I libri possono arrivare in forme diverse, cioè chi ha un libro nel cassetto che magari per tante ragioni non ha mai pubblicato, però ritiene di doverlo sottomettere alla community per una valutazione, c'è chi invece non ha una buonissima idea e magari ha solo dei pezzi e vuole arrivare fino in fondo attraverso la campagna. In fondo anche un autore affermato può testare in qualche modo il mercato, no? Con un meccanismo di questo genere. Senta, questa community esiste oggi? C'è comunque un mondo di appassionati, in particolare dell'ebook? Io ho alcuni amici molto appassionati e vedo che si scambiano informazioni tra loro. In rete c'è un grandissimo interesse, ci sono tantissimi blog, tante piccole community. Bookabook è partito come community su Facebook diciamo un paio di mesi fa e ha raccolto già dei numeri molto importanti, perché più di 31.000 persone hanno deciso di partecipare a questa community. Quindi in realtà c'è una grandissima attenzione che naturalmente noi speriamo poi si possa traduca in flusso economico, perché insomma la cultura ha bisogno anche di quello per vivere, no? Economico e anche di idee. E di idee. Per essere una piattaforma di raccolta soldi è anche una piattaforma di raccolta idee e di confronto tra lettore e autore. Ecco, perché forse possiamo aggiungere questo, l'avremmo forse dovuto dire prima, ma non c'è solo la possibilità per l'autore, diciamo, di proporre un titolo, di proporre un capitolo, ma c'è la possibilità di avere un contatto con i lettori e viceversa, che forse ancora una volta, insomma, può avere delle ricadute, per esempio aiutare gli autori andare in direzione di qualcosa che poi trova riscontro. Diciamo che autori e lettori fanno parte della stessa community e su Bookabook potranno confrontarsi, potranno dialogare, potranno anche discutere se necessario. Credo che sia molto importante, perché un luogo di incontro digitale tra lettore e autore oggi non esiste. Una volta c'erano i circoli del libro, le presentazioni eccetera, oggi ce ne sono naturalmente molte meno perché la fruizione del libro è cambiata, e noi vogliamo creare questo sulla rete. Una community può dare dei consigli, una community può anche dare e benedirlo dei giudizi, perché per far vivere un libro non basta che sia scritto e sia in qualche modo disponibile in formato cartaceo e digitale, è importante che una community lo faccia circolare, lo apprezzi, lo legga, lo critichi, lo commenti, questo secondo noi è essenziale nella vita di un libro. Grazie Tommaso Greco. Grazie a lei.